cielo. Il collo della giraffa va da terra fino al cielo. E la giraffa quando vuol grattar l'orecchio è un problema, è un problema, è un problema. E la giraffa quando vuol grattar l'orecchio è un problema, è un problema, è un problema. Il collo della giraffa ha un sacco di puntini. Il collo della giraffa ha un sacco di puntini. È per questo che la giraffa è amica della gallina, la gallina puntolina. È per questo che la giraffa è amica della gallina, la gallina puntolina. Ehi donna giraffa, su dammi un bacino. Dimmi se il sapore della nuvola è salato o zuccherino. Cielo. Il collo della giraffa va da terra fino al cielo. E la giraffa se vuole essere invadente è potente, è potente, è potente. E la giraffa se vuole essere invadente è potente, è potente, è potente.